ne fate, questo te lo dico io qua. Le orecchie palabre come schiatta. Questa notte tanto non ne dormi. La fa la tua madre, quella bagassona, capito? Stronzo, freddo, la notte come dormi tu. Te lo dovrei staccare quel cazzo di telefono. Tante non si è passato, ma boh. Quando non c'è portante già ti sento. Già ti sento. Falli tu. E poi stanotte già falli col cazzo. Vediamo se ne crepa qua bagasse mamma tua.